in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Questa domenica e per tutto agosto faremo una cosa un po' diversa dalla rassegna stampa dei quotidiani. Ci concentriamo, visto che spero tutti voi abbiate più tempo per leggere che durante gli altri mesi, ci concentriamo sui settimanali e mensili. Questa settimana ho scelto il magazine del Wall Street Journal che si chiama WSJ con un punto. In copertina c'è Johnny Ive, che forse molti di voi conosceranno, gli appassionati di tutti i prodotti Apple sicuramente. È stato un grande amico di Steve Jobs, fondatore della Apple, e insieme a lui ha orchestrato la seconda vita della Apple quando Steve Jobs è tornato per salvare la sua azienda dalla quale era stato estromesso. Lo spunto per parlare di John Ive, che non è uno che rilascia molte interviste, è che sono quasi finiti la nuova sede della Apple. L'ha disegnata, lui ha fatto una sorta di consulenza, super consulenza a Norman Foster, che è l'archistar che l'ha disegnata. Si chiama proprio Apple Park e secondo Johnny Ive è veramente il porta da vita alla visione di Steve Jobs. Il Time, il settimanale in questo caso americano, ha in copertina un articolo molto interessante che in realtà il Time focalizza partendo dai dati americani, ma che poi ci interesserà tutti, si intitola la copertina The Anti-Antidepressant, cioè l'anti-antidepressivo. Ci sono infatti, si calcola che ci siano nel mondo 300 milioni di persone che soffrono di depressione. Un terzo però di questi di fatto non ha un beneficio dagli attuali farmaci, dall'attuale treatment. C'è un nuovo farmaco, ne parla il Time dalla pagina 32 in poi, che sta dando molte speranze. L'Economist, il settimanale britannico, io forse la maggior parte di voi lo sa, però non vorrei che trarre in inganno qualcuno, non è un settimanale di economia, tratta in realtà di molti temi. Certo, ha un approfondimento speciale per i temi macroeconomici, ma poi in realtà parla di tutto e soprattutto sono interessanti le indagini, gli articoli sulla geopolitica. La copertina di questa settimana si intitola It Could Happen, potrebbe succedere, è una sorta di stilizzato fungo atomico, come siamo abituati a vedere raffigurato. Da una parte c'è il viso di Kim Jong-il e dall'altro c'è quello di Donald Trump. C'è questa escalation, questa sorta di nuova guerra della deterrenza tra i due paesi. Secondo l'Economist va presa molto più sul serio di quanto forse non si sia fatto finora. Vi segnalo poi il supplemento del giornale dedicato allo stile, perché in copertina c'è Neymar, più uomo delle cronache di così non è possibile, e in questo articolo racconta naturalmente la sua passione per il calcio, il suo amore incondizionato per il paese in cui è nato ma che ha lasciato per giocare nei più grandi club europei, il Brasile naturalmente, e poi anche la sua passione per gli orologi. E qui è interessante perché poi all'interno, curioso insomma, ci sono gli sportivi e l'orologio che si sono scelti. Non vi dico i brand perché magari poi pensate che voglia fare della pubblicità occulta, però appunto è divertente perché tutto sommato l'orologio che, qui parliamo di sportivi uomini, l'orologio che secondo i maestri di eleganza dovrebbe essere l'unico accessorio concesso agli uomini, io penso che si possa tranquillamente rompere questa regola, comunque mettiamo che sia così, sicuramente dice molto della persona che lo indossa. Il venerdì di Repubblica invece ha una copertina dedicata alla Luna e tra l'altro la foto è di Buzz Aldrin, uno dei due astronauti, gli unici due uomini ad aver messo, i primi due uomini ad aver messo i piedi sulla Luna. Nel casco di Buzz Aldrin tra l'altro si vede riflessa l'immagine del suo compagno di avventure. Ma perché questa foto? Perché il titolo è Ristregati dalla Luna. Secondo molti si potrebbe ricominciare a esplorare la Luna. Addirittura, secondo Stephen Hawking, l'autore, il famoso astrofisico che sapete riesce a parlare soltanto con grazie a un computer, ma è comunque la sua mente è sempre molto avanti, anche perché non ha fatto che studiare il tempo, quindi probabilmente ne ha anche una considerazione diversa da noi. E lui dice, lui ha sempre sostenuto che l'uomo deve tornare sulla Luna perché la Terra non basta più. Ora, da qui a costruire tipo Spazio 1999, non so se lo ricorderete, bisogna che siate un po' ormai ultra quarantenni come me, anzi più vicini ai 50 che ai 40, però era una serie che appunto ipotizzava che nel 1999, e sappiamo che non è stato così, sulla Luna ci sarebbe stata una colonia umana. Vi segnalo anche, visto che tanto di Libia parliamo, collegandola all'emergenza dell'immigrazione, un reportage sul venerdì di Repubblica sulla Libia, la costa di nessuno, trafficanti, milizie, poliziotti, ruoli che in Libia si confondono. Ecco perché l'Italia, per salvare i gommoni, invia le sue navi. E sappiamo anche quanti malumori ha suscitato questo all'interno di uno dei due referenti politici che ci sono in questo momento in Libia. Comunque il reportage lo trovate a pagina 28 del venerdì. E poi vi segnalo la recensione, in realtà la recensione è uno spunto per parlare di questo argomento, la recensione di un libro che si chiama La scienza della contentezza, lo ha appena pubblicato Feltrinelli, l'autrice è Cristina Berndt e ci racconta come forse essere contenti è meglio che essere felici, se felici la felicità è fatta di istanti, mentre la contentezza ci può dare maggiore stabilità, potremmo dire così, maggiore equilibrio. Le gioie intense durano poco e costano molto perché sono effimere, una serenità costante invece più appagante. Uno potrebbe dire, ma che scoperta, però qui in questo caso Cristina Berndt ci spiega anche che ci sono degli studi in particolare molto avanzati sulla dopamina, una molecola che viene considerata un po' la molecola della serenità / felicità, che appunto fa questa differenza tra i due stati d'animo, e li spiega anche dal punto di vista scientifico. Sportweek, che è il settimanale allegato alla Gazzetta dello Sport, la dedica invece la copertina a Max Biaggi, un grandissimo motociclista, è stato 4 volte campione del mondo nella 250 e come sapete ha avuto un incidente qualche mese fa, ha rischiato di morire, si è rotto molte costole, e quando le costole si rompono, al di là del dolore tremendo, chi l'ha provato lo sa, anche perché non si può fare quasi niente se non aspettare che in qualche modo non si può ingessare la costola, naturalmente, visto che è all'interno del nostro corpo, ma oltre a questo ha anche rischiato la perforazione di un polmone. E quindi qui si racconta, tanto che il titolo in copertina è Un nuovo Biaggi, ripenso alla moto, all'incidente in cui ho rischiato di morire, ricordo il dolore, rivedo l'ospedale e capisco come sono cambiato. E trovate questa bella intervista di Gianluca Gasparini da pagina 25 di Sportweek. I due supplementi della Repubblica e del Corriere della Sera del sabato. Il primo è dedicato, la copertina a Ilena Isinbaeva, che è stata forse la più grande saltatrice con l'asta degli anni recenti, era un'atleta russa e ora, anche per tutte le polemiche che ci sono state, lo ricorderete sicuramente, sul doping all'interno delle varie squadre della Federazione Russa, ora è diventata ha lasciato l'agonismo ed è diventata una paladina dell'antidoping e soprattutto cerca di far passare questa filosofia dello sport, tra virgolette, pulito nelle scuole, quindi tra i bambini. Poi vi segnalo la rubrica di Vittorio Zucconi, la trovate a pagina 22, perché ci parla della sanità americana e spiega anche che forse la riforma sanitaria di Trump, che sapete doveva sostituire l'Obamacare ma è stata bocciata dal Congresso, è stata bocciata anche perché l'aveva messa a punto un team di uomini, mentre secondo Vittorio Zucconi ci fosse stata qualche donna in più come consulente, forse avrebbe avuto qualche chance di passare al Congresso in più. Ci lasciamo un attimo per una pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli per la seconda parte della nostra rassegna stampa dedicata ai settimanali che abbiamo deciso di fare per tutto il mese di agosto. Vi ho detto della copertina di Didi Repubblica, invece quella di Io Donna, che è il supplemento del Corriere della Sera, è dedicato a Cara Delevingne, che è giovanissima perché ha poco più di 20 anni, ma è già una delle modelle più famose, soprattutto per lei, più che in passerella fa campagne pubblicitarie e altre cose, ma fin da subito ha dimostrato che voleva anche già pensare al suo futuro, e infatti ha già partecipato a molti film. Da ragazza mi sentivo perduta, oggi ho 40 milioni di follower sui suoi vari social network, vorrei ispirare sicurezza a chi mi segue. Dalle un'altra donna molto diversa, sempre su Io Donna, pagina 42, Tamara Lunger, che è figlia di Hans-Jörg Lunger, che è stato un noto sci alpinista italiano, sono entrambi altoatesini, è stata 2 volte vice campionessa di lancio del disco, prima poi di abbracciare come il padre lo sci alpinismo. E in questa intervista, in questo ritratto, Nicoletta Pennati ce la racconta: la montagna è una livella, siamo tutti uguali. Soldi, tempo, sponsor, se vuoi fare l'alpinista servono queste 3 carte, e se sei donna non puoi fare la femminuccia. Parola della collezionista di vette altoatesina, che da grande però farà l'elicotterista e intanto pratica 2 esercizi, meditazione e rinuncia. Poi, non ridete, vi segnalo dalla settimana enigmistica, non so quanti di voi la sfogliano, la conoscono, magari soprattutto d'estate, perché è la stagione ideale per fare, per allenare un po' la mente con tutti questi giochi enigmistici. C'è una pagina, io me la ricordo perché avevo uno zio che comprava la settimana enigmistica tutte le settimane. C'è una pagina che si chiama Forse non tutti sanno che, dove ci sono delle curiosità. Quella che a me è piaciuta di più di questa settimana è sul bradipo, animale affascinante, mammifero delle foreste tropicali dell'America centro-meridionale, passa gran parte dell'esistenza appeso con tutte e 4 le zampe ai rami degli alberi. In tale posizione mangia, dorme e mette persino al mondo i figli. Si muove così di rado e in modo tanto lento che viene comunemente chiamato poltrone, e spesso appunto si dà del bradipo a una persona considerata lenta nel fare le cose. Il Corriere della Sera, 7 il Corriere della Sera, il supplemento che esce al giovedì, dedica la copertina invece a un altro sentimento molto diverso dalla serenità e dalla felicità, che è l'invidia. E il titolo è Cos'è l'invidia oggi? E per far capire che cosa può essere l'invidia, c'è una foto molto nota che vede sedute a tavola vicino Sophia Loren e Jane Mansfield. Erano molto giovani, è una foto che fu scattata nel 1957, e Sophia Loren getta uno sguardo molto molto significativo al décolleté di Jane Mansfield, che era forse, soprattutto per gli standard estetici di quell'epoca, ancora più invidiabile di quello della stessa Sophia Loren. Ma questa foto appunto è solo un modo per parlare, come spiega Beppe Severgnini nel suo editoriale di pagina 9, che cosa può essere l'invidia oggi. Secondo Severgnini è il fastidio per il merito e la competenza. Il successo altrui va ammirato e premiato, non deriso e offeso. Gli attacchi alle cosiddette elite nascondono il tentativo di trascinare tutto e tutti verso il basso. La copertina di Panorama invece è una specie di fotomontaggio: c'è un turista asiatico con una gamba dentro al Colosseo e una gamba fuori, e comunque il Colosseo ha i suoi piedi. Il titolo è Visitors, che naturalmente non vuol dire un false friend della lingua inglese, non vuol dire visitatori, ma vuol dire, non vuol dire turisti, ma appunto vuol dire visitatori, ma in un senso sempre con un'accezione negativa. Forse qualcuno anche in questo caso ricorderà la serie televisiva Visitors, che erano degli extraterrestri perfidi, malvagissimi, che volevano uccidere tutti gli abitanti della Terra. E infatti Panorama dice: come nella famosa serie TV sull'invasione degli alieni, le città sono sotto l'attacco del turismo di massa. Tra divieti e ordinanze si difendono da una risorsa che non si sa gestire e da una valanga umana che aumenterà sempre di più, con numeri da capogiro. Anche in questo caso sono stati moltissimi questa settimana gli spunti di cronaca, a partire dall'articolo uscito sul New York Times il 2 agosto su Venezia, che denunciava anche proprio il pericolo poi di una città particolarmente fragile come è Venezia quando viene invasa. In realtà poi per Venezia non si tratta neanche di un'invasione stagionale, è un'invasione che dura tutto l'anno appunto da tantissimi turisti. Il fatto è che poi il nostro paese è un sogno per molti che non ci sono mai stati, e quindi per questo Panorama cita queste statistiche che prevedono un aumento notevole del turismo dall'estero nei prossimi anni. Vi segnalo poi internazionale, un numero speciale che sarà in edicola come sempre in estate. Internazionale ha un doppio numero, così come ce l'ha nel periodo tra Natale e Capodanno, è dedicato al viaggio. Ci sono reportage, foto da tutto il mondo. Vi segnalo, ce ne sono veramente, c'è l'imbarazzo della scelta, però vi segnalo questo molto curioso di Mail Magazine, un magazine appunto degli Stati Uniti, Babbo Natale in crociera. E questo giornalista, Brian Smith, è andato a scovare questo strano posto in California, dove alla fine della stagione natalizia i Babbi Natale, che negli Stati Uniti durante il periodo natalizio sono diffusissimi in tutti i centri commerciali, spesso negli asili, insomma persone che fanno di professione in quel periodo il Babbo Natale. Quindi i Babbi Natali di professione si danno appuntamento in California per riposarsi, discutere delle sfide del loro mestiere e condividere le tecniche migliori per decolorare la barba. Abbiamo citato Venezia, sempre su internazionale, sul numero dedicato al viaggio, da un magazine sempre americano che si chiama Guernica, un reportage di Nathalie Handal, Venezia familiare. Lei è una scrittrice della diaspora palestinese ed è andata a Venezia per rimettere insieme i frammenti della sua famiglia, senza un indirizzo ma solo con un'indicazione generica avuta da uno zio. Le fotografie che accompagnano questa autrice, questo reportage sono bellissime, ma il reportage stesso appunto ci dà ancora un angolo diverso di Venezia. E poi, visto che spessissimo l'Africa in questi giorni, in queste settimane, fa parte della cronaca sia per la questione naturalmente dell'immigrazione, ma anche perché ci sono molte consultazioni elettorali in questo momento in Africa. C'è stata in Kenya, c'è stata in Ruanda, altre ne arriveranno. E da questo magazine sudafricano che si chiama Chimurenga, Polagu Tsitsibibwe ci racconta che in un articolo intitolato Frontiere mentali, che per andare da un paese africano all'altro gli abitanti devono fare i conti con faticose procedure burocratiche. Un passaporto continentale risolverebbe molti problemi. Certo, lo diciamo sempre, l'Africa è un continente fatto da più di 50 paesi, però in effetti forse anche la burocrazia è una maledizione per tutti, ma questa della difficoltà di passare i confini forse si potrebbe pensare appunto ad alcuni modi per renderla un po' meno pesante per chi deve viaggiare tra i paesi africani. Il National Geographic di agosto dedica la copertina all'Etna, definendola una storia d'amore millenaria. L'Etna è il vulcano più alto d'Europa. Nel reportage ci sono numerosissime fotografie sia d'estate che d'inverno, e si spiega nell'articolo di Marco Pinna con delle stupende fotografie di Alessandro Gandolfi che a memoria d'uomo l'Etna è sempre stato un vulcano attivo, un'enorme montagna che sputa fuoco, lava e fumo, alimentando paure, miti e leggende di ogni genere. Ma ci sono anche delle foto scattate d'inverno, perché d'inverno sull'Etna si può sciare. Vi segnalo anche Vogue Italia di agosto, ve lo segnalo perché è molto cambiato. Il suo direttore storico Franca Sozzani è morta poco prima della fine dell'anno del 2016. Ora c'è un nuovo direttore di un'altra generazione, tra l'altro è un uomo, ed è già questo è abbastanza strano per una rivista come Vogue. Ha cambiato formato. Per chi si interessa di moda sicuramente è un punto di riferimento. E comunque c'è una bellissima intervista a Hedi Slimane, che è uno degli stilisti più interessanti della sua generazione, è stato direttore creativo di Saint Laurent, poi adesso ha lasciato, soprattutto spiegando come spesso capita agli stilisti proprio di avere una vera e propria sindrome da burnout. È stato al suo posto, adesso c'è un altro stilista che sta avendo grande successo, che si chiama Anthony Vaccarello, italo-americano, e in questa intervista che trovate da pagina 36 di Vogue, Hedi Slimane si racconta e spiega per esempio appunto la sua scelta di lasciare Parigi per Los Angeles. Si è trasferito a Los Angeles, chiede l'intervistatore, con l'unica eccezione della cerimonia degli Oscar, quando lei si è trasferito lì non poteva certo definirsi un punto di riferimento per la moda. Ora le maison francesi e americane presenziano con regolarità agli eventi organizzati lì, e in gran parte grazie a lei. L'estetica della città è diventata riconoscibile, un paradigma di riferimento. Cosa ne pensa? Hedi Slimane risponde: Los Angeles è cambiata moltissimo negli ultimi anni. ma io ero convinto della crescente influenza che avrebbe avuto nella cultura popolare, nella musica e nell'arte, amplificata anche dall'importanza sempre maggiore dei social media. Perché non creare e plasmare proprio da qui un'estetica attorno alla California? Los Angeles era il punto di osservazione più vivo e importante. E questo appunto è un po' il racconto di questa scelta, ma a Los Angeles in realtà hanno casa, o comunque in California, molti altri stilisti. Vi segnalo, perché è una rivista, è il settimanale di moda che io amo di più, di moda, che poi chiamarlo di moda è anche un po' riduttivo, che è Gioia. E in copertina è raro che ci siano persone famose, però poi vengono richiamate molte interviste. Per esempio, in questo numero c'è un'intervista a Kirsten Dunst, una delle più interessanti, secondo me, attrici americane, ha 35 anni, sarà presto di nuovo al cinema con il nuovo film di Sofia Coppola, del quale fanno parte anche Nicole Kidman e Colin Farrell. Il titolo dell'intervista è «Ci voleva un'amica». Pensate, il suo primo ruolo in un film l'ha avuto quando aveva 3 anni. A 6 recitava per Woody Allen, a 11 baciava Brad Pitt, sicché a volte si sente così stanca da voler mollare tutto, ma come nelle favole, ogni volta arriva l'unica persona al mondo capace di farle cambiare idea. E è, secondo me, sempre molto interessante quando le interviste sono fatte bene, nel senso che a belle domande ci sono interessanti risposte, vedere come anche le persone che così a una uno sguardo superficiale sembrano avere tutti i motivi per essere felici e appagate, hanno, specie se sono donne, potrei aggiungere, grandi insicurezze. Vi segnalo infine il numero di Millennium, che è il mensile del Fatto Quotidiano, è arrivato credo sia al quarto numero, quindi abbastanza recente, interessante perché la copertina è dedicata alla cosiddetta Summer of Love, che è stato quella del 1967 a San Francisco, che è stato un po' l'inizio di tante piccole grandi rivoluzioni che sono partite, parlavamo prima della California, proprio dalla California. Era però l'ultima segnalazione per oggi, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.